Mi è sempre stato insegnato, fin dall'inizio della vita cristiana, un grandissimo principio: esiste il vero o il falso. Nessuna via di mezzo. Una verità che contenga mezza bugia rimane una bugia. Mentre una bugia che contenga un po' di verità non diventa una verità. Come l'acqua, che produce la vita, e il veleno, che produce la morte. Un bicchiere di acqua che contenga una minima parte di veleno non è acqua pura, mentre se nel veleno si versa dell'acqua in abbondanza, questo rimane sempre acqua avvelenata. Il vero e il falso, la vita e la morte, non si possono mescolare senza alterarne la reciproca proprietà intrinseca. Mi veniva poi quindi insegnato ad applicare questo giusto principio alla parola di Dio, alla Bibbia. Così tutto quello che Dio dice è vero, mentre tutto quello che afferma l'uomo e non corrisponde al pensiero di Dio è, e rimane, sbagliato. Nessuna via di mezzo. In conseguenza a questo principio nasce nel credente un altro atteggiamento inevitabile. Quello che comprende del pensiero di Dio è verità, mentre tutto quello che non corrisponde alla sua comprensione non è verità, per cui va ritenuto sbagliato, falso. E così è perché diversamente se l'interprete della scrittura si rendesse conto di sbagliare la sua valutazione su Dio e i suoi pensieri, cambierebbe subito i suoi giudizi, adattandoli a quelli ritenuti veri. In definitiva, di solito il credente pensa di ragionare come ragiona Dio. Una conclusione che sembra assurda e che il credente razionalmente non accetta assolutamente, ma per la mia esperienza posso testimoniare di aver sentito a volte questa decisione finale in certe conversazioni, nelle quali ognuno rimaneva arroccato nelle proprie convinzioni. Il raziocinio e il buonsenso ci impediscono anche solo di pensare di essere in piena sintonia con la volontà di Dio espressa nella Bibbia, ma nel profondo del nostro essere, quel profondo che viene definito nella Bibbia acque profonde, Proverbi 20.5, dimora una sostenuta certezza di non sbagliare nell'afferrare il senso di ciò che è scritto. Diversamente, per onestà e coerenza, opteremo per la verità. Così aggiungeremo alla verità già professata un'altra verità, dimostrando ancora di più che stiamo valutando e camminando in tutta la verità. Chi la pensa diversamente, poveretto, per il principio che esiste la verità o l'errore, è nell'errore. Per molto tempo l'indossare questo ragionamento mi stava stretto, ma molto stretto, fino al giorno in cui Dio, nella sua misericordia, mi ha rivelato che esiste una via di mezzo tra ciò che io ritengo vero e falso. Occorre proprio parlare di rivelazione, perché ho sempre quotidianamente letto la Bibbia per anni e anni. Eppure, certe parole non squarciavano la mia mente, imprimendola indelebilmente. Fu così che un giorno lo Spirito Santo mi rivelò il senso intrinseco di ciò che Paolo scrisse nella lettera ai Romani: accogliete colui che è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. Romani 14.1. Dunque, la comunione fraterna è basata fondamentalmente su persone che hanno opinioni diverse, le quali non devono essere sindacate. Altre versioni traducono che non bisogna giudicare gli scrupoli o i pensieri, ma comunque l'ordine non è rivolto a non valutare il falso o il vero, ma certe convinzioni, che potrebbero anche essere opinabili, cioè discutibili. Il contenuto dell'opinione è proprio questo: che ci siano delle opinioni è risaputo, ma questo non significa che ci sia una via di mezzo tra il vero e il falso, perché di opinioni ce ne sono delle giuste o delle false. Secoli fa c'era l'opinione che la terra fosse piatta, e quando ero giovane si insegnava che i pesci erano muti, tanto è vero che si era coniato il detto muto come un pesce, mentre oggi, grazie ai moderni strumenti sofisticati in nostra dotazione, si è a conoscenza che i pesci comunicano tra loro. Ma esistono anche opinioni giuste, le quali saranno da valutare di volta in volta. Quando Einstein annunciò la sua teoria della relatività, sembrò una cosa assurda, ma col tempo essa si rivelò vera. Quali sono allora le opinioni costituenti una via di mezzo tra il vero e il falso? Non sono né vere né false? Impossibile! Esiste un compromesso tra il vero e il falso? Dipende da cosa si intende per compromesso. L'Apostolo Paolo spiega subito dove applicare il suo ordine. L'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Romani 14.2. Dunque, al tempo dei primi cristiani, vi era chi credeva di poter mangiare di tutto, mentre altri ritenevano sbagliato mangiare un certo tipo di carne, per cui si cibava solo di legumi. Non si trattava di dottrine di fede o di aperta disubbidienza alla volontà di Dio, ma di questioni di coscienza, in merito a cose di relativa importanza. Sì, perché contrariamente a quanto comunemente si pensa, non esiste solo il vero e il falso, il giusto o l'ingiusto, uguale per tutti. Ma esistono anche cose che soltanto io ritengo vere e false, giuste e ingiuste, e altrettante cose vere e false, giuste e ingiuste, solo per il mio prossimo. Paolo lo disse molto chiaramente. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda. Romani 14.14. Perciò, pur avendo le sue idee, 1 Corinzi 7.12, dico io, 1 Corinzi 7.25, mio parere, 1 Corinzi 7.40, mio avviso, e una profonda convinzione della purezza di ogni cosa, che tutto si potesse mangiare, Paolo non disprezzava né condannava chi la pensasse diversamente, ma ordinava che chi avesse la convinzione di dovesse astenere dal mangiare la carne sacrificata agli idoli, per coerenza alle proprie idee non dovesse mangiarne, senza tuttavia obbligare un altro. Esistono dunque tra i credenti comportamenti prettamente soggettivi e che non devono essere imposti agli altri. E poiché i comportamenti dei credenti sono soggetti o condizionati alla comprensione della parola di Dio, va da sé che esistono pure interpretazioni diverse in merito alla volontà di Dio. Quando, allora, una interpretazione è lecita senza che venga a ledere le dottrine cristiane? E cosa saggia tenere presente le interpretazioni della parola di Dio stabilite dai cristiani nel corso di questi 2000 anni e confrontare attentamente le molteplici interpretazioni che vengono date a certi passi biblici? Nell'ambito cristiano non si possono negare le varie interpretazioni in merito al ritorno di Cristo ed è inutile scomunicare chi abbia una opinione diversa dalla nostra, come è vano e non saggio farsi dei nemici in merito alla liceità o meno del divorzio, se sia giusto risposarsi e altre cose del genere. Sono tutte opinioni che è saggio non trasformare in dispute. Si possono considerare, si possono mettere sul piatto della bilancia, ma non devono diventare oggetto di lite e di separazione. Così è pure saggio non giudicare le opinioni di chi sia a favore della pena di morte, di chi sia a favore della poligamia o di chi non desideri festeggiare il Natale. Anche brani di difficile interpretazione nella Scrittura, come quello concernente il peccato, che mena a morte o in merito a Gesù il quale andò a predicare agli spiriti che erano in carcere, non devono essere ragione di dispute teologiche, anche perché, alla fine dei conti, afferrarne il senso pieno cambierebbe davvero poco nel cammino della vita cristiana. Queste sono alcune delle opinioni che è bene non giudicare, cioè condannare, se si vuole ubbidire al comando di Dio. Se uno, per ragione di coscienza, non si sente di soprassedere, almeno non si metta contro il fratello, perché senza volere potrebbe anche mettersi contro Dio. Proprio perché non vi è solo il vero e il falso, proprio perché esistono nei credenti delle opinioni personali legittime, proprio perché Dio rispetta la coscienza di ognuno, la Scrittura ordina ai cristiani di saper vivere e convivere per onorare Cristo e il Vangelo. Quando Paolo ordina ai credenti di Corinto di avere un medesimo modo di pensare e di volere, 1 Corinzi 1.10, quando ordina ai filippesi di combattere insieme con un medesimo animo, Filippesi 1.27, quando esorta due donne, di nome Evodia e Sintiche, ad avere una sola mente, non intendeva obbligare alcuno a cambiare opinione, ma voleva che tutti i cristiani avessero lo stesso atteggiamento di Cristo Gesù, non rimanendo arroccati nelle proprie posizioni, non ritenendole qualcosa alla quale aggrapparsi tenacemente, Filippesi 2.57, essendo in grado di vedere le. Forse uno degli Antico Testamento ti di Mantico Testamenturità cristiana pienurità. Difficili è proprio questo. Io ho ragione, l'altro non ha torto. Solo così si può essere aperti alla conversazione. Non si diventa inflessibili, e si può convivere benissimo con opinioni o vedute diverse. Infatti, da dove venivano le liti e le divisioni tra i primi cristiani? Forse perché erano malvagi. Forse perché non amavano il Signore Gesù Cristo. Niente affatto. Proprio perché amavano la verità. Proprio perché erano convinti ognuno da parte sua di avere ragione, giudicavano chi aveva opinioni diverse. Come allora rendersi conto di agire in modo sbagliato? Come comprendere la propria anche inconscia volontà di imporre le proprie opinioni? A questo Giacomo risponde: chi è savio e intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti ci è invidia e contesa, lì ci è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Or il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Giacomo 3.1.3.18. Non vi è nulla da aggiungere. Lo scopo di confrontare le nostre opinioni con il fratello deve tendere alla pace, deve tendere ad avere un piano comune, un agire d'accordo, perseguito con uno spirito pacifico, mite, docile, e se ciò non avviene, si lascerà spazio allo Spirito Santo per compiere quell'opera di convinzione adatta a poter camminare assieme, perché ci si è messi d'accordo. Amos 3.3. Solo allora l'opinione trova la sua ragion d'essere, un motivo per amare il prossimo. Aprile 2010. Ellero.